in onda. Ciao Edi. Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino e alla parte tecnica Simone. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi simpatici amici e ascoltatori di Piazza Alta. Siete sintonizzati su Radio F e questa è la nostra 21esima puntata. Come tutti passa i il tempo? Ma come veramente passa il tempo? Pare ieri, pare la scorsa settimana che abbiamo fatto la 20esima. Guarda, il tempo proprio inesorabile. Scorre, pantarei. Basta. Basta. Quello così. È magari il pranzo che hai fatto a Pasqua, pantagruelico. Ancora vado di rincorsa da Pasqua poi, perché ho fatto rincarare l'ovo sodo. C'è tutto poi dei weekend lunghi adesso, sì, che ci aspettano. È già una settimana corta, siamo già in pieni festeggiamenti. Quindi riposiamoci. È vero. Riposiamoci. Tranquilli, Simone. Pensaci, vai, Simone. Te. Sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised me. Give it to you. Come on. I Gotcha di Jotex, questo è il brano che ha inaugurato questa puntata. E pensate, Jotex è uno dei principali esponenti del genere funk americano degli anni 60 e primi anni 70. Sì. Dico, sarà una puntata molto impegnativa per me e Marzi, perché parleremo di un argomento che poi sveleremo. Abbiamo già dato un indizio, mettiamola così. Esatto, però in cui noi non capiamo assolutamente niente, io e Marzi, quindi diremo molto. Scusa, parla per te. Voglio dire, questo genere musicale di cui stasera tratteremo è una delle poche cose, a parte il ciambellino, su cui mi sento ferratissimo. Guarda, hai dato dimostrazione. Allora, siamo qualità di conservatore dello scibile umano, stasera penso che farò la mia porca figura. Guarda, sulla vabbè, senza dubbi. Ma di che stiamo parlando? Abbiamo dato qualche accenno, ma chi siamo noi? Ma chi siamo noi per dare questi accenni? Da dove ridiamo questi accenni? Da Piazza Alta. Da Radio F. Venite a Foiano, in Piazza Alta ci trovate. Da due borghi, sia di quella Santissima Trinità che l'altro che non che so come si chiama. Quindi, se non vi va bene, noi non abbiamo scampo. Se ci salutate da sotto, noi ci affacciamo alla finestra e rispondiamo. Ma se volete stare al caldo delle vostre case, certo, essendo dicembre, c'è la neve. Ci poi potete ascoltare. Noi siamo arrivati con. Come? Marzi, come ci potete ascoltare? Ma nel metodo più tradizionale, nel mezzo di comunicazione, la classica, dove Marconi si è espresso al massimo, sbizzarrito. Infatti nelle FM 101.2 trovate, sì, Radio F. Mamma mia, un doppio scarpiato con avvitamento. Trovate Radio F. Oppure su streaming. Proviamo con la modernità. Chiaro, www.radioef.it. L'ha detto anche il punto. Siamo a posto. O addirittura. Oppure ancora più sul contemporaneo. Ah, mi faccio a caso, scusate. Scaricando la nostra app, sia per Android che per Apple. Che l'app, come si chiama, Marzi? Radio F. Dal 1976. A posto, ce l'abbiamo fatta. Benissimo, possiamo assolti gli obblighi contrattuali. No, ce ne sono altri di obblighi, che sono la pagina Facebook. Tu Enzino sei già partito, hai già postato foto. Abbiamo già postato la prima foto. Vogliamo con il salutare nostro ospite. Qualcuno troppo presto. Brava, colgo. Brava, okay. Brava, grazie. Abbiamo salutato presto. Eddie, quindi per come inizio puntata va bene così. Che tra l'altro abbiamo incontrato in settimana e gli abbiamo promesso che faremo una trasmissione, una puntata solo su di lei. Però un'altra cosa importantissima è che in pochissimo tempo abbiamo superato i 300, finalmente la soglia dei 300. Evviva. I like, grazie, è stata una settimana di svolta e anche di costosa, perché io ho dovuto pagare almeno 6 persone, un crescendo rossiniano, ormai non ci fermiamo più. I 307 mi piace ormai sono alla portata di mano. Sì, ancora no, però avessi detto 1000, sai. Oh, ma parliamo finalmente di questo argomento della serata. Aspetta, allora, che lo faccio io. Sì, parliamo dell'argomento della serata. Intanto salutiamo subito il nostro ospite. Aspettate, ora mi preparo per. Okay. Simone mi ha richiesto un'intonazione all'americana. Ora vediamo se riesco a farlo. Yeah, io intanto dico yeah. Ladies and gentlemen, yeah. Abbiamo nei nostri studi di Radio F, Mister. Teacher Mark! Giù che strepitio! Vedi. Lo stanno ricercando a Filadelfia, lo io stanno ricercando nel formaggino. Non ha pagato in the cheesecake. Ne faccio la traduzione perché lui parla solo in italiano, io traduco in inglese. Al secolo Mister Teacher Mark. Sì, ok. L'abbiamo già detto. Marco Andrea. Ma chi è? Cioè chi è? Che cosa ci rappresenta Marco Andrea, allora, Teacher Mark, questa sera? Lui è il frontman. Vai, puoi andare via, Marco. Tanto te già da ora in poi zero totale. È la voce, nonché animatore in anche davvero io sono da un tutti po' i punti frontman. Di vista di un gruppo che foianese. Assolutamente, quantomeno una buona parte. Per buona parte, tre confermi. Quinti. Tre quinti, tre quindi quinti, la maggioranza vince. Maggioranza. A posto. Stiamo facendo una campagna di annessione, anche gli altri due diventeranno foianesi. Che si chiama? Il gruppo si chiama? Elefunk. Perché parleremo di loro? Ma perché non avevamo nient'altro da fare? No, assolutamente. No, perché? No, io sto scherzando. Ma no, sì. Ecco, ma proprio perché in questi giorni esce il loro primo album. E ha detta loro il primo album serio. Sì, giusto? Il primo album serio. Degli Elefunk. Che si chiama quest'album? Ti prego, Marcello, ti guardo. Il titolo per cortesia. Gli è manteniamoci molto a Marzi. Con un decoro musicale. Sì. Perché il titolo dell'album è. Lo facciamo dire a te. MILF, che è un acronimo, cioè, un acronimo. Quindi sta a significare che i maschietti pensano ovviamente subito noi che abbiamo un'esperienza internazionale pensano una certa cosa, invece noi amanti del funk l'abbiamo reinterpretato in Music I'd Like to Funk. Ecco. Quindi, la traduce e qui Marcello è sprofondato per in una tristezza. Mi dispiace, Marzi, ti abbiamo deluso. Vabbè, però continuiamo a parlare. Una ragione, ne continuiamo a parlare dopo. So, intanto, sono proprio curioso di sentire che cosa ha da dire. E lo quindi sentiremo. Lo dovrai convincere. Va bene. Allora, intanto andiamo col prossimo brano e poi iniziamo questa storia fantastica. Vai. Thank you. dancing, get dancing, till you feel it, y'all. Direttamente dal 1973 abbiamo ascoltato il brano Jungle Boogie, uno dei classici più celebri e celebrati del genere funk mondiale. L'artista è Kool & The Gang. Chiedo conferma, okay, all'esperto. È corretto, teacher? Sì, sono. Confermo. Ma che confermi? La tristma cosa vuoi confermare? Allora, prima di iniziare a parlare quindi con l'amico teacher Mark e gli Elefunk, dobbiamo ricordare che sulla nostra pagina Facebook potete trovare ancora i nostri loghi. E alla fine di questa settimana andremo a scegliere quello che sarà il nostro logo ufficiale. Sì. Sulla base delle indicazioni di chi ha interagito. Chiedo anche a Simone conferma di tutto questo, vero? Certo. Poche parole, ma preziosissime. Preziosissime. Sì, decisamente. E circonciso. Ma è stato preziosissimo anche... nel caso appunto degli Elefunk, perché pensa a Teacher Mark, Simone ha passato un brano proprio dell'album MILF già più o meno 3-4 settimane fa. Non sì, appena uscito. Lanciandolo. Ancora voi non l'avevate fatto. L'hai sentito. Quindi ci avete copiato. Preoccupato. E quindi questa sera andremo a presentare meglio l'album. Sì, parliamo sia di voi, della vostra storia, che dell'album. Ma prima ci permettiamo di dire due cose noi, che Tecco ci correggerà immediatamente. Sì. Inizio io, Allora, la missione impossibile degli Elefunk, questo l'abbiamo tratto dai vostri vari organi di informazione. Questo dal fegato l'abbiamo. La vostra missione è funkifizzare lo stivale. Oh, bravo. È vero? Bravo. Tutto pensa, caro mio Marzi, a Benizio nel gelido inverno del 2003. E mi dirai te, ma che giorno era? Giovedì. Un giovedì. Perché tutto accade di giovedì. Sì, quelle cose sempre belle. E comunque. E Mr. Sam Peterson contattò sia Mr. Julius A.N., che non so come si dice, Gore. Mr. Nitro Jack e Mr. John Peck e naturalmente Mr. Teacher Mark. E assieme cosa fa? Cosa capiscono, Marzi, immediatamente? Che dovevano cambiare nome. Almeno per noi. No, assieme che cosa capiscono? Assieme capiscono, caro Enzo. Ma scusate, ora io interrompo, ma... cioè, attento a un gruppo che fa funk, cioè... Ci voleva il nome inglese, ci voleva. Ecco, vedi? Ci voleva. Certo. No, ma noi siamo d'accordo. Siamo gente De Chiana. E questo è importante. Barry De Chiana. Ma su questo poi infatti ci entreremo. E il Verro fa parecchio funk e groove, secondo me. Sì. Groove è bravo. Sì. Ecco, io qui ci voglio arrivare. Ma a tempo debito, caro Mr. T. Mr. T. Senti, Mr. T, ma Mr. Lui. Allora, siccome ora devo ascolti, per contratto devo reggere tre rime. Da contratto, perché altrimenti è... Vai, dicevo, caro Enzo e cari radioascoltatori, che assieme questi cinque di qui sopra capiscono che il paese va salvato dalla deriva, e questo è possibile farlo solamente con il funk, un'illuminazione di direi io sì. Sono pienamente d'accordo. Pensa che proprio Mr. Teacher Mark cosa disse, Marci? Disse tante diverse cose, ma quella più importante era: tutto sarà svolto nel migliore dei modi. E questa è una frase che secondo me profetica. Può tranquillamente passare negli annali. Sì, ma non era finita qui, però, la frase. Disse anche: continua con il delicato vigore di un elefante in una cristalleria, l'incessante passo del pachiderma funk fizzerà la penisola. A questo punto, la domanda direi che nasce spontanea. Che cosa vuol dire, nella vostra accezione più profonda, funkfizzare? Allora, funkfizzare è la traduzione italianizzata di Funkifies, che è un brano dei Tower of Power. Ma gruppo si sentiva, noto, passeremo. No, ora te devi avere pazienza con noi, Marco Andrea, perché realmente io e Marzi non ci guardiamo con gli occhi da panda. bimbo da koala smarrito, un motivo c'è, perché vogliamo capire. No, perché noi dobbiamo capire. Noi questa sera, oltre a fare il servizio di fare una trasmissione per far conoscere di ancora di più quello che fate, cerchiamo di capire anche noi quello che fate, sì, o meglio, ci, la musica, ci proverò. Siamo venuti anche a sentirla, ci piace, eccetera. Sì, sì. Però noi siamo dei superficiali, noi ascoltiamo e torniamo a casa. Invece dietro c'è sicuramente un lavoro, un ragionamento, sì, e queste sono le uniche due frasi serie che dico chi stasera. Chi è Frank, caro Enzo? Si esibiscono in giro per l'Italia. Queste sono le altre due righe. Da contratto. Nel 2010 decidono di mostrare la loro vera faccia e da lì inizia il declino. No. La melodia e la musica sono funk, ma il linguaggio è italiano. E su queste parole vi auguriamo una buona notte. Lanciamo già il primo brano allora, tratto da MISP degli Elefunk. Il primo lo decidiamo noi. Sì, i prossimi ne parliamo insieme. Simone, ok, ha già deciso. Scusa, non ti capisco. Non ti capisco. Scusa, non ti capisco. Faccio un giro sul portale. Tanti status da guardare. Frasi super, super impegnate, riflessioni sgrammaticate. Se perdi il filo del discorso, oh, leggo ancora ma non capisco. Chiudi tutto, presto scappa. Fuggi via da questa cappa. Tu mi chiedi ma perché? Congiuntivi, non c'è tempo per parlare, non c'è spazio per parole, ma nei messaggini ci sono sempre i tuoi puntini. Quando mi scrivi non ti capisco, io provo ma non ci riesco. Sembra aramaico, sembra tedesco, mi sento fuori dal contesto. Per farmi la cultura mi sono dato alla lettura. Cercavo un libro dell'orrore. Ho letto scusa ma ti chiamo amore. Ho scoperto l'invenzione dei lucchetti dell'amore. Da attaccare sopra i ponti, ma che moda da dementi. Quando mi scrivi non ti capisco, io provo ma non ci riesco. Sembra aramaico, sembra tedesco, sento fuori dal contesto. Quando mi insulti io non mi offendo, no, anche perché non ti comprendo. Parole confuse somigliano a un testo che mi fa ridere di gusto. Ma sono solo abbreviazioni, GM buio dell'antico, SM il fico. Sono troppo avanti e non mi trovi sugli azzotti. Adesso posso andare, non ti può scappare. Non metto gli accenti alla faccia dei miei innocenti. Mandami un MSG, sentiamoci su FX. Bimbo minchia, scrivo con la K tipo K, o me sai SGS DV te ne vai. Direttamente dall'album MILF degli Elefunk abbiamo ascoltato il brano Non ti capisco, sì, sì. L'ho detto bene, sì, aiuto? Sì, sì, sì, sì. Scritto proprio da Mr. Teacher Mark in collaborazione con Andrea Pepi. Sì, che lo salutiamo. Ciao Andrea. Ciao Andrea, io vorrei chiedere, e farei così da qui a fine serata, dopo ogni brano degli Elefunk, una critica da parte di Marzi. Vai. Ecco, questa... sono un po' agitato. Quest'idea di anche lui più di te elaborare i titoli delle canzoni, stai diventando serio. No, tipo codice fiscale, non ti cappa isco, non ti esse aluto. Da cosa deriva? È bimbo minchiese questo. Ah, ecco. È bimbo minchiese. Abbiamo fatto che è una lingua Praticamente è questo modo dei giovani bimbi minchia di condensare tutto, tutta la lingua italiana in acronimi, cioè che ne so, se il Devoto Oli quante pagine sono? Più di svariate migliaia. Ecco, il bimbo minchiese condensa queste decine di migliaia di pagine, qualche centinaio insomma. Signori e signori, ma vedete ragazzi, ma Luciano Rispoli l'avesse avuto una delle sue trasmissioni, ci avrebbe fatto tre puntate. Ma quindi voi vi ispirate ai a Luciano Rispoli. ma si sente. No, ora faccio due domande serie e poi vado via. Come è iniziata Marcandrea la vostra storia, cioè veramente come vi siete trovati, perché vi siete trovati e quando? Allora, ci siamo trovati a questo punto quasi una decina di anni fa a fare cover. Facevamo cover comunque disco anni 70, funky. Poi ci siamo approcciati a fare alcuni rifacimenti, cioè nel senso non c'era più solo l'elaborazione della cover scolastica, insomma, c'era una voglia di reinterpretare comunque le cover. Da questo è venuto la voglia di provare a fare dei brani nostri 4-5 anni fa. Abbiamo fatto una decina di brani, ma molto, cioè in maniera discontinua, cioè non con un progetto, andavamo un pochino a ispirazione, diciamo. La cosa ci è piaciuta parecchio, abbiamo detto a questo punto, siamo arrivati a questo punto, abbiamo detto ma facciamo un progetto un attimino più organico, più concreto, e abbiamo scritto questi nuovi 10 brani, ecco. Ed è uscito il nuovo lavoro, sì. Che non si chiama più album, no, per l'amor di Dio, no. Ci mancherebbe altro. Come si chiama? Che cos'è? Si chiama album. Ah, si chiama album. No, meno male. No, no, no, per lo forza. So. Io non no. aspettavo. Allora, io vi ho visto. Ti guardo volentieri. Ti ascolto. Vi ho visto quando vi esibite, date l'idea di divertirvi parecchio, sì. Soprattutto te. Sì, il messaggio è il messaggio che a noi piace di più della musica funky, ecco. Cioè, noi abbiamo colto prima di tutto il messaggio positivo, cioè perché la musica comunque è una musica gioiosa, una musica trascinante, che è molto diversa comunque dalla scena musicale attuale. Cioè non è facile trovare una musica divertente, gioiosa e spensierata, ecco. E noi sicuramente il lato giocoso è il lato che amiamo di più della musica, l'abbiamo anche ritradotto sul palco con i nostri costumi, cerchiamo di essere molto colorati, che secondo noi anche questo, ecco, l'aspetto visuale, visivo è... Infatti noi ora pubblicheremo anche una vostra foto di quando, mentre vi esibite. E come nasce proprio il vostro look? Perché voi dire che siete colorati è riduttivo. Sì, appunto, siamo variopinti. Esatto, variopinti. No, nasce da una mia fissa. Io ho sempre avuto il pallino del travestimento, cioè nel senso, giustamente da foianese doc, io certo. Amo il carnevale. Mi sono sempre vestito degnamente, e allora ho detto, ma perché ragazzi non proviamo anche a fare insomma uno spettacolo, a rendere più vivo lo spettacolo, a partire dai costumi, anche per, cioè banalmente dà anche un senso di ulteriore professionalità secondo me per una band, che non è solo lì per suonare per bene, ma anche per fare uno spettacolo, ecco. Certo, no, assolutamente. Io volevo sapere, diciamo, dove fisicamente avete cominciato a suonare, cioè ci sono come spesso accade, nel garage del nonno, nella sopralape dello zio. Cioè personalmente nella mia storia musicale, nella mia esperienza musicale, sì, ho cominciato nel garage del mio amico. Lo sapevo. E quindi è destinato al successo. Al successo, perché il garage è uguale successo. Cioè, però ci siamo c'è evoluti, anche la musica però garage. Ci siamo evoluti, siamo passati dal garage alla cantina. Allora lì. Con tutto quello che c'è dentro. Ecco, sì, finito di mangiare. Che cosa di bere. E praticamente diciamo che avete iniziato lì. E poi? per esempio, ora dove fate le prove? Perché presumo no, le facciamo sempre cantina, nella cantina di Giulio Angori, che salutiamo, che salutiamo e ringraziamo. Com'è il vino? Che è vuoto, l'ansia sono brutti. Perfetto. Che mi piace, la musica che mi piace, tu sei la musica che mi piace, la pensa personale, e c'è chi fuma fuori dal locale, se parti basso la batteria, mi metti con la sera, sei andata via, da me la solita bevuta, la solita battuta, vomito sul bancone e l'occhio sul bordone. Hey, yeah. Oh! Ma continua a parlare e fai finta di non guardare. Wow! Quella là, una signora provocante, decisamente spudorata, e si tave donne mutande, dalla con la leopardata. Vestita da 16 anni, solo per un'ora, una leonessa quarantenne, in cerca di avventura, e ci sta bene la signora, categoria me, sulla colonna sonora, categoria punk, this is the music. La gente su del palla e vuole fare chiusura. No, no, no, no, no, no, no, no. Guardati bene dalle granny, le signorine di svariati anni. Guardati bene dal pop e dall'indie. Se ti piace questo funky, sexy, sexy bit. Si muove bene sopra il funky bit. Inconfondibilmente porno mi ricorda Sabrina Salerno. Donna esperta, una che porta almeno la quarta. Ecco la mia fatona, ironica matrona, e non è più di primo pelo, no, ma te lo giuro fa sul serio. Quando entra in scena con stivale per zona, è proprio quello che ci piace, sì. Come quel suono un po' mi piace, sì. Sono sicuro di sì, categoria me. Categoria funk, this is the music, hey, hey. This is the music, I like to funk, this is the music, hey, hey. This is the music, I like to funk, this is the music, hey, hey. This is the music. MILF, il brano che dà il titolo a questo album serio degli Elefunk. E quindi ricordiamo anche che MILF sta per Music I'd Like to Funk. Lo ricordo perché sai, sì, Marzio, ogni volta vedo un sussulto, già. Riparte subito, dice, però ora e clicca immediatamente. Invece sei tranquilli, filate troppa fiducia, e ragazzi. Se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse vedere questi appunto sussulti di Marzio, esatto, lo può fare grazie Enzino al nostro canale YouTube, dove già da domani vedranno anche questa puntata, parte di questa puntata, e dove possono vedere tutte le altre puntate. E a tal proposito ringraziamo Paolo, che è diventato il nostro movie maker della trasmissione, oltre che direttore artistico. Impegnatissimo nel fare le riprese. Quindi io volevo sapere, se mi permettete, visto, prego, che state cianciando, la Marcandrea, se è possibile sapere i veri nomi, insomma, degli Elefunk e che strumenti ciascuno di loro suona. Certo. Mi raccomando, accordati bene. Anche perché dopo adesso questa risposta ho una chicca che nessuno di voi sa. Wow. Allora, io sono Marco Andrea Terziani e canto e basta, canto e basta. Beh, però bene. Sicuro di questo? Che sì, sei, canto e basta, non mi vedete suonare niente. Perché non vuoi, perché... Per pigrizia. Ah, ok. È bene. Scelta. È scelta, bene. Poi abbiamo Samuele Petti, che è un altro foianese alla chitarra. Jacopo Pecchi al sassofono tenore, che è sempre di Foiano. Degli altri due allora non ne parliamo, no. Gli stranieri sono Giacomo Tozzi da Marciano alla batteria. Poi Tozzi, guarda, con me sfondi una porta aperta, sì. Ma perché è un altro pro... sono un fan di Umberto, no, Umberto, e quindi no. Anch'io no. No, cioè anche lei non è d'accordo con me, no? Oh, mamma mia, no, sto scherzando, no, non sto scherzando, lo so, vabbè, pazienza. E poi invece abbiamo al basso Giulio Angori da Castiglione Fiorentino. Ok, perfetto, li salutiamo tutti sì, quanti, come se fossero anche tutti gli stranieri, sì. Non foianesi, assolutamente. Volevo sapere, il foianese al di fuori delle cinta murarie del castello, come viene accettato, come viene percepito, non soprattutto se fa musica? Va bene così, nemmeno lui si aspettava la domanda seria, come il castiglionese presso il buon. Oh, invece le faccio io un'altra domanda adesso. C'ho ancora un'altra cavolata, eh? Dilla subito. No, allora, stavo ragionando su come alle volte il nome di un gruppo, il nome che dai a un'attività, in questo caso musicale, può essere determinante, può essere condizionato, condizionare la storia. È vero, io ho questa chicca, non so se ti chiedo la conferma, che quando avete dovuto scegliere un po' il genere musicale eravate molto, come dire, combattuti tra altri generi musicali e eravate indecisi se chiamarvi hippo rock, tigro pop o zebro dance. Zebro dance. Bravo. Io. Perché avete scelto Elefunk? Ma perché... Con tutti gli animali che alla... Basta, sei andato benissimo. Zebro Dance. Zebro Dance quasi. Potrebbe quasi essere uno spin-off degli Elefunk. Quasi dopo 10 anni in cui hai creduto in una cosa, in una serata. Però a proposito di questo ti volevo chiedere questa cosa. Allora, voi avete tutti e cinque avuto sempre la passione per il funk oppure qualcuno di voi vi ha trascinato? Ti chiedo questo perché ad esempio il nostro regista Simone, che è un musicista affermato, l'inizio gli inizi lo hanno visto protagonista. Questa in è la un chicca, complesso eh? Liscio, che suonava il liscio. Lui non lo dirà mai, ma lo dico io. Non solo. L'importante è uscire dal tunnel. Ecco, quindi volevo sapere, voi invece siete partiti nati tutti funkfizzati? No. Oppure avete iniziato anche voi con Romagna Mia? Che magari averne, insomma. No, fortunatamente non ci siamo cascati in questo errore. Però sì, abbiamo fatto altri generi, sì. Io ho suonato in un gruppo rock, hard rock, facevamo, qui di Foiano eravamo tutti i Bump. Quindi hai suonato allora? No, scusami, io cantavi, quando dico anche suono intendi cantare. Il suo strumento suonare lo, è la voce. Suonare le è corde vocali. Devi sapere, Sara, che c'era un periodo in cui a Foiano andava molto di moda suonare campanelli di notte e scappare. Io devo dire che ho anche suonato al campanello di Radio F. Oh, questo che tra l'altro non suona, ma si illumina. Ma che anno era? Il 1976? No, probabilmente un pochino dopo. L'89 di sicuro, una roba del genere. Ho capito. Allora, senti, un'ultima domanda, poi passiamo a un altro brano che sicuramente avete già deciso qual è. Sì, è già stato. Marzi. Io proporrei un brano degli Elefanti. No, questi. Dai, no. Tratto dal suo ultimo. Ma possiamo anche ascoltare qualcosa di Zebro Dance? dopo. Per... Anzi, sì, ne parlerà Marzi. In anteprima, il nuovo singolo. Ti dico subito che per me, dopo Giacomo Rondinella, non c'è niente. C'è il vuoto. Guarda, non faccio più domande. Ascoltiamoci Mr. Teacher Mark. Sabato sera, 100 estati fa, nostalgia di un ballo in discoteca, la primavera, vago ricordo di un odore. Quando fioriva l'amore era tutto un altro sapore, yeah. Gelati dimenticati con le nebbie di novembre, gelate di gennaio, un nuovo lavoro, un nuovo guaio, scioglie il ghiaccio, rompe questo gelo, questa nuova primavera apre un nuovo cielo, giorni di gloria, restiamo eroi in cerca di gloria, nuova primavera, una nuova storia per chi come noi sogna giorni di gloria e finalmente entrare nella storia, prendi sensi questa storia, quest'amore fa una strage ma non ti dà gloria, con un pastiglio sul frigorifero ti lascia una canzone triste che fotte di malinconia. Sguardi profondi da ragazzi troppo grandi, un coniglio per adulti con occhi disattenti, per contrastare la nostra cecità, grandi scorte di abbondante nullità, giorni di gloria, restiamo eroi in cerca di gloria, nuova primavera, una nuova storia per chi come noi sogna giorni di gloria e finalmente entrare nella storia, prendi sensi questa storia, quest'amore fa una strage ma non ti dà gloria, con un fastidio sul frigorifero ti lascia una canzone triste che fotte di malinconia. Sempre degli Elefunk dal loro album MILF, giorni di gloria, ah, giorni di Glory gloria. Days, Glory Days, ma oppure anche Gloria manchi tu nell'aria di Umberto Tozzi, che tra l'altro è tradotta in più lingue, ha venduto circa 14 milioni di dischi, penso, quindi voglio, ragazzi, dire, pensa un po' l'essere umano, gliel'abbiamo servita proprio così bene, no, io sto, ma ci mancherebbe, tutti però Enzino torna adesso in te, torniamo a Piazzalta, la nostra pagina Facebook, devo fare tanti saluti. Vai. Siete pronti? Vado, prendo il respiro. Allora salutiamo Simo, Rosi, Maria Teresa, Augusto, Salvatore, Silvia, Barbara, Daniela, Tamara, Alessandro, Dobre, Niccolò, Sabrina, Debora, ancora Biri, Lauretta, Samuele di Siena, Gabriele Boreg, Alessandro di Siena e Anch'io ho dei saluti. Appunto, mi ero volevo fermato per questo. Valerio, Giovanni, Massimo e Rosaria, che il giorno, siccome mi manda sempre i saluti, ma per interposta persona, e ancora non ha capito che bisogna accenderlo il telefono per poterci sentire. Esatto, perfetto. Fantastico, oh, abbiamo salutato tutti. Siamo stato anche veloce, insomma. Sì, sì, sì, sì, velocissimo. Potevo andare anche, no, e non ho capito perché prendi sempre il prefisso 0575 dell'elenco. Dell'elenco per non salutare sempre i soliti. Ah, ecco, sull'elenco e ne scelgo altri di nomi ogni tanto. Vabbè, pazienza. Così. Sara, torniamo a noi, torniamo all'album MILF degli Elefunk che sì, presentiamo questa sera. Siamo in compagnia, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, di Marcandrea, ovvero Mr. Teacher Mark. Oh yeah. E allora Marcandrea, io vedo dal librettino del sì, CD che c'è la produzione e la supervisione artistica di Dario Cecchini. Sì. Ci vuoi sì, intanto dire chi è? Lo presentiamo ai nostri ascoltatori e sì, poi com'è nata questa collaborazione. Dunque, Dario Cecchini è il leader di una marching band, la più nota in Italia, che sono i Funk Off, che chi è stato a Umbria Jazz sicuramente li ha visti esibire. Sono quelli che saltano come dei pazzi, insomma sono una banda molto, molto figa, molto funk. E niente, abbiamo avuto l'opportunità e l'onore di collaborare con lui grazie a un concorso indetto dalla Regione Toscana che abbiamo vinto e ci ha dato l'opportunità, cioè il premio stesso era una collaborazione con lui nella stesura di un paio di brani che non sono presenti entrambi in questo album, solamente Crisi di Funk faceva parte di questa raccolta che abbiamo fatto per Toscana Musiche. Da questa prima collaborazione è nato un bel rapporto, non solo professionale legato alla musica, ma anche un rapporto di amicizia, e Dario ha accettato di collaborare con noi in questa scommessa, in questa avventura, ecco. E sicuramente ha dato la svolta al nostro lavoro, ecco, ha dato la piega che probabilmente noi non saremmo riusciti a dare, ecco. Ho capito, quindi diciamo sicuramente un apporto importante. Sì, l'esperienza di sicuro nel campo di questa musica che è così poco, scarsamente esplorata in Italia, lui ecco ha una profonda conoscenza e ci ha potuto indirizzare nelle strade giuste dove noi ecco avevamo le difficoltà, ecco. Ecco, e sempre per quanto riguarda quest'album e anche tutti i vostri lavori, chi è che scrive i brani sia nei testi che nella musica? Cioè tutti quanti oppure qualcuno di voi è più prolifico? Allora, i brani nascono musicalmente, nascono dalla collaborazione di tutti e cinque. I testi li scrivo tutti io, in questo caso, in questo album anche mi sono fatto aiutare da un mio amico, un grande creativo che stimo molto come persona, come amico, che è Andrea Pepi, che avere un raffronto con un'altra persona nella stesura dei testi è molto importante, perché quando la creatività si incunea, si incaglia, è un disastro. Ci sta in le mesate su un testo. Invece una persona creativa che ti dà lo spunto giusto, ti sblocca e arrivi alla fine. Ora ti faccio due domande proprio da neofita, ma proprio anzi da ignorante totale. Nasce prima la musica, nascono prima le parole, la difficoltà di incastrare le parole nella musica? Dunque, sono due approcci differenti, però può partire sia dalla musica o dal groove o da un riff, oppure partire dalle parole e da una melodia. Nel vostro caso posso svelare, vabbè, tra virgolette, un segreto, ma non sono segreti, sono cose che impari scrivendo. Sicuramente, ecco, è più facile scrivere un brano partendo dalle melodie e dalle parole che non partire da un groove e dalla musica e poi trovare le parole dentro, ecco. È più complesso. Mai mi sarei immaginato di avere accanto il Mollica della Valdichiana. Chi sarei io? Ma io quando ho davanti degli artisti veri, chiaro, mi impersonifico, chiaro, anche nel Mollica della Valdichiana. Ecco. Ma sono onorato di questa cosa. Sì, ma non parlare di me. Parla di Mollica. Fai una domanda intelligente, se ti riesci. No, no, assolutamente. No. Non voglio turbare la serata di nessuno. No. Domande intelligenti. Il problema è che, come tutti i giovedì sera qua a Piazza Alta, i minuti passano velocemente e mi sto accorgendo che stiamo arrivando verso la fine. Le domande sono ancora tante. Sì, ce tante, ne sarebbero tante. Tante. Rimaniamo magari un attimo sui testi. Cosa ti ispiri, Marcandrea? Allora, noi... Quando appunto magari ti trovi anche nei momenti di difficoltà. Sì, allora, noi cerchiamo di ispirarci alla realtà, non è che cerchiamo cose assurde nei nostri testi. Però naturalmente cerchiamo, siccome comunque le canzoni sono scritte molte nella storia, cerchiamo anche qualcosa di un pochino più originale, ecco. Ma spesso l'originalità sta sotto, come dire, sotto il mattone, no? Sotto il sasso, cioè alla portata di mano, ecco. Spesso magari è una sciocchezza, come ad esempio abbiamo fatto un brano con Andrea che si chiama Doccia. Mi venne Andrea a casa e mi disse: ma guarda, io ho in mente una canzone, voglio scrivere una canzone che torno a casa e canto nella doccia. Dico: ma cazzo di idea! invece è nata una canzone che forse è tra quella, è la seconda, una che mi piace tra quelle che mi piacciono più di tutti, ecco. Quindi a volte basta anche un pretesto, ecco, per scrivere un testo. Quindi, beh, doccia, diciamo, potresti fare anche un album completo, doccia, un concept album sulla doccia. Esatto. Io farei perfetto. Così, sulle tue sentenze manderei sempre un brano. Sentiamoci un altro brano. Potete meditare. Salate e noccioline, proprio qui nel mio giardino. Ho un pozzo di petrolio. Non ci sta male, no, venitemi a trovare. Per questa vita basta lavorare, no. Massaggiatrici thailandesi mi fanno male i polpacci, mi fanno male le braccia, rimedi farmaceutici, ci vado peso di analgesici. DNA da petroliere, sopra una maca voglio restare, solo sudare, solo a casa del sole, sono sprecato per lavorare io. Splendida, dove chiamare tutti sì per un grande party, ma un mal di testa, e al piano di sotto c'è una festa, stasera brodi in minestra, alle 9 in punto a letto, signor direttore, non la prenda male, ma io non sono programmato per lavorare, basta, ho deciso, no, da oggi non muovo un dito, senza arroganza, servite il riverito. Bye. DNA da petroliere. Aiuto. Vabbè, Sara, cioè, però allora, sopra la panca la capa. No, no, ma non fare lo spiritoso, Marzi. 33 trentini. Facci una critica su questo. Ma no, critica che può essere, cioè, su questo positivo, brano. Critica su la critica brano. Che posso fare su questo brano, posso dire che l'acqua era un po' fredda. Ma non era questo. Non era questo. È quello dopo, Doccia. Io sono avanti. La critica sul prossimo brano. Perché siccome siamo appunto, stiamo sfumando, adesso ci abbiamo verso poi la conclusione. Fumarne meno sì. Tutti quanti. Marzi, vai, a te la prossima domanda. Ricorda un po' gli appuntamenti, dai. No, gli appuntamenti dunque, domani giovedì prossimo. No, guarda qua, guarda qua, guarda, è facile, leggi. Allora. Ma domattina sì, è vero, in realtà c'è un appuntamento in carta. Non importa, Sara. Vogliamo finirla qui? Salutiamo Marcandre e andiamo via tutti? No, assolutamente, assolutamente. Allora, gli appuntamenti domani sulla nostra pagina Facebook li troverete. Di buon mattino, direi. No, no. Sì, domani è anche festa, quindi no, infatti era una battuta. Simone, tu che posterai il podcast. Sì, mi dica. Verso che ora? Sul presto. Mezzogiorno. L'ora di pranzo. Poi, anche Marcandrea, che è un artista, che ore t'alzi normalmente la mattina? Ma io alle 7. Mi scende dal letto. Devi prendere l'orario dell'artista, se vuoi sfuggire. Sì. Ma poi volevo consigliare una rubrica che sta spopolando. Delicatissima. A Hollywood non fanno altro che guardare questa cosa. Una serata da leoni e gli appuntamenti del weekend che si trovano sulla nostra pagina Facebook il nostro Simone inesorabilmente aggiorna tutte le settimane. Ma ora vieni alla domanda intelligente. La domanda intelligente, no, la faccio io una domanda, ecco. Dai, che tanto, allora, so che avete fatto le preselezioni a Sanremo. Sì un paio di volte. No, siamo recidivi tre volte. Ci devi raccontare alta sincerità. Quando, come e perché non siete stati presi. Allora, a parte, noi abbiamo è un complotto. È tutto un magna magna. No, ma chiaramente scherzi a parte, dai, spiegaci. No, va bene. Non affondiamo la lama. Comunque, sì, abbiamo preso questa cosa molto sportivamente, però ci andava di provare, perché anche quello ha fatto parte, anche quello è stato un passo per diciamo professionalizzarsi, insomma. È stata una cosa che prendi un pochino più, no, come si fa un pezzettino, si prova a fare una canzone come viene. La prima volta abbiamo provato con Sanremo con la canzone Elefanti in cristalleria, che abbiamo scritto con il paroliere, uno dei parolieri di Renato Zero, che è Vincenzo Incenzo, ha collaborato con noi nella stesura del testo e della melodia. Paroliere è stata una bella soddisfazione che ci è stata data dal premio Valentina Giovagnini, che abbiamo vinto la prima edizione, e abbiamo conosciuto questa persona, gli siamo piaciuti, ha detto ma perché non proviamo così, insomma. E niente, è stato la prima volta un approccio molto serio come il disco, nel senso che comunque abbiamo buttato giù diversi brani, non è che si è fatto buona la prima, cioè abbiamo fatto una prima bozza, gliel'abbiamo sottoposta, lui ha detto no, c'è da aggiustare questo, insomma ci siamo messi un attimino in gioco, ecco, c'è stata una maniera di affinare tutte determinate cose, i testi, le melodie, gli arrangiamenti, che in quel caso lì per Sanremo dovevano essere meno funk, più pop, certo, più semplici, meno sincopati, tutte queste storie qui. E quella è stata la prima volta che abbiamo provato, che a questo punto siamo nel 2014, penso nel 2009, vedrai, forse è stato nel 2009, non voglio dire una cavolata. Poi ci abbiamo provato una seconda volta con il brano, oddio, vabbè una seconda volta e una terza volta, no, sì, ok, no, la dicevo. Terza volta quando risale? 2 anni fa, mi sembra. Anche lì avete fatto un brano che si adeguava un po' più a Sanremo. Sì, addirittura si intitolava il brano Bravi ragazzi. Io avevo fatto un testo, l'avevo scritto, che non era... è stato cambiato il testo ad hoc per Sanremo. cioè Vincenzo ci aveva detto fatelo un pochino più accattivante, perché quando sai devi fare, devi provare con Sanremo, devi fare insomma un una pochino... canzonetta. Sì, ma non solo, devi un pochino strizzare l'occhio all'attualità. È chiaro che se ci devi provare, ci provi, diciamo, andando incontro a... Ti adatti comunque a quello che è lo stile del festival, le caratteristiche principali. E per cui avevo scritto un brano in un certo modo e l'ho riadattato, invece i bravi ragazzi sarebbero stati i cattivi ragazzi, cioè parlavo veramente della gioventù che andava a fare tra virgolette danni, invece per Sanremo i bravi ragazzi erano diventati i politici, ecco, quindi era stata tradotta in questo senso qui, ecco. Ecco, ti volevo fare un'altra domanda proprio alla luce anche un po' di quello che ci dici, per voi quanto è complicato, diciamo, emergere in un mercato come quello italiano con il vostro genere? È difficilissimo perché comunque la cultura musicale, non, come posso dire, non è che è bassa la cultura musicale in Italia, ma l'ascoltatore medio italiano è abituato a ritmi e a sonorità facili, cioè ormai... chi fa pop lo sa meglio di me, gli arrangiamenti sono, per amor di Dio, con tutto rispetto nei confronti di chi fa pop, ma comunque è molto lineare, non trovi mai cose molto elaborate, attenzione a un riff o a un groove, a un assolo. Gli assoli ora sono diventate una cosa rarissima, esatto. Cioè, se trovi un assolo di 10 secondi è veramente da strapparsi i capelli, è rarissimo. Perché hai guardato me, scusa? Per i capelli, per i capelli da strappare. Guardavo il mio futuro. E, insomma, è molto sono anche difficile. Pochi accordi quelli del pop, poi fondamentalmente sono più o meno gli stessi. L'importanza accordi viene data solamente alla voce, molto meno agli strumenti. Ecco, è difficile parecchio. Quindi per te è un problema di cultura musicale, perché ragionando magari in termini di, passami il termine, mercato, essendo un genere magari poco di nicchia quindi poco anche prodotto musicalmente, magari se riesci comunque a farti conoscere in un certo senso, a sfondare, hai meno concorrenti da questo punto di vista. Però tu dici è un problema quindi di cultura musicale, di sonorità. Cultura musicale, di sonorità, e anche ultimamente mi sembra anche molto di mode, perché accanto alle produzioni grandi del pop c'è tutta una moda che si affianca, che, diciamo nell'underground, cioè quelli che si definiscono underground, comunque sia, alla fine sono alla moda. Perché comunque viene fuori un certo genere di musica e tutto l'underground si indirizza su quel genere lì. E alla fine, se tutti comunque vanno a fare quella roba lì, cioè è una moda a tutti gli effetti, certo, anche quella. Assolutamente. Cioè, finisce Marcello, no, perché no, ormai stiamo sforando, ma ci sono delle domande ancora parlavamo interessanti. Parlavamo proprio di estetica, volevo sapere se avete in preparazione dei video che possono anche o se accompagnare. Sono anche in uscita, già. Sì, stiamo lavorando al video di Non ti capisco, lo stiamo girando con un personaggio abbastanza noto in internet su YouTube che si chiama Frafrog. Ecco, come vedrai, come capisci dalle nostre facce, no? Marcello ha capito. Eravamo insieme, abbiamo lo stesso analista. Andate a cercare Frafrog su YouTube, è una ragazza molto molto molto allora non sveglia. Abbiamo lo stesso analista. Ma sappiamo, e purtroppo siamo veramente alla fine, però questo va detto, che uno dei prossimi video lo realizzerà una persona a noi cara, e cioè una futura collaborazione con il nostro regista Simone, che è anche un movie maker, con queste due parole mi sono guadagnato il paradiso, e quindi saremo molto curiosi di vedere quello che succederà sotto il nome d'arte di Corova Milk Bar. Hai capito niente, ma torno al mio buon Giacomo Rondinelli. Abbiamo finito, siamo andati oltre sono ogni... volati veramente i minuti, ma che dite ragazzi, non... lo passiamo un pezzettino di doccia sul non finale? Ce la facciamo, no, non ce la facciamo e non lo sentirete allora mai. Dobbiamo salutare anche velocemente, perché Simone ci fa segno di salutare. Ringraziamo allora Marc'Andrea, ovvero Mr. Teacher Mark degli Elefunk. Abbiamo presentato il loro album MILF, Music and Like to Funk. Stasera non abbiamo capito una parola, Marzi, però è stato bellissimo. È bellissimo. No, scherzo, è stato divertente. La dimostrazione del fatto è che anche è passata un'ora. È volata. È veramente volata anche questa sera. Puntata. Quindi l'appuntamento non è a giovedì prossimo perché è festa, il 1° maggio, quindi andiamo a 2 settimane. Sì, facciamo 15 giorni di vacanza. E allora mi raccomando, un appello a tutti i nostri ascoltatori: rimaniamo almeno in contatto tramite Facebook. Abbiamo la nostra pagina Facebook. 2 settimane sono troppe, sono quindi troppe. Scriveteci anche non in privato, sentirci. Insomma, faremo un programma finto su Facebook, non lo so, qualcosa. Grazie il ancora Marco Andrea. Podcast e video su YouTube. Ok, ci vediamo giovedì, ci sentiamo fra 2 giovedì. Marci, dillo una ultima cosa importante. Ciao. 1976. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marci, Enzino e alla parte tecnica Simone.